Can you see it, my brother? Can you see the new? Sister, can you see the new? Can you see it, my brother? Can you see the new? Can you see it, my sister? Can you see the new? Can you see it, my brother? Can you see the new? See the new. Prima puntata dei magazine, lunedì 4 settembre, allora puntuale o quasi, 8 e 5 minuti, iniziamo subito con dei saluti, ben ritrovato a Luigi, ben ritrovato anche a Lino, avete passato un buon weekend, immagino di sì, anche oggi è una bellissima giornata, sta anche passando un aereo in atterraggio, benvenute e benvenuti a Bologna, quindi ai passeggeri che stanno così atterrando nella nostra città. Grazie per aver scritto al 333-180-9494. Non ai passeggeri, magari insomma una volta atterrati, per carità, in questo caso a Lino e a Luigi. Double L. See the new vibe, shaking me, making me alive and drive, striving towards my goal, the old five, minutes and periphery thrills. Sicurezza innanzitutto. Intanto, a proposito di sicurezza, quanto si parla di mare, iniziamo da pagina 8, prima di dare spazio in maniera importante al Festival della Letteratura di Mantova, con due voci prestigiose all'interno dei nostri magazine e il quiz, che vediamo se riusciamo, insomma, a portare in frequenza. Per quanto riguarda il manifesto d'Alias, edizione del sabato, tutti al mare e poi paura, voi già immaginate, eh no, in questo caso io vi parlo di Medusa, della Medusa, questa bellissima ragazza, oppure questo mostro ancestrale da due furie marine, esce con tre sorelle, le Gorgoni, una in particolare con lo sguardo che pietrificava, con i capelli coperti da mostri, serpenti, rettili e quant'altro. Insomma, anche la leggenda però dice, soprattutto dalla letteratura e dal mito, che fosse una bellissima ragazza. E qui cito Ovidio, uno dei miei classici nella Metamorfosi. Sappiamo bene che Perseo, poi giovane Virgolo, culto, riuscì a decapitarla, ma il percorso non è immediato, e a pagina 8 di Alias vi è un aspetto storico e mitologico, ma vi è anche un aspetto concreto su questi abitanti del mare, intelligentissimi peraltro, anche se monocellulari e limitati negli spostamenti, a volte per fortuna, anche se personalmente devo ammettere che non ho un gran problema con le meduse, sarà il mio amore per il mare, per il mito, non so. Comunque fino adesso mi è andata benissimo. Quindi Medusa, una bellissima ragazza invisa Atena Minerva, perché? Perché fu sedotta da Poseidone, e dove ebbe luogo questo far l'amore frenetico? All'interno di un tempio della stessa Minerva. E lei dice addirittura: non solo tu vai a sedurre mio zio, il grandissimo Poseidone Nettuno, dio del mare, ma vai a far l'amore con lui dentro il mio tempio. Ma che mi hai preso, insomma, per il tuo luogo di piacere, no? E la trasforma in un bruttissimo mostro, come già vi ho detto. Un re, molto anche lui libertino, si innamora della mamma di Perseo e dice, insomma, adesso voglio togliere di mezzo questo giovane invadente impiastro, che faccio? Lo incarico di uccidere Medusa. Beh, Perseo immediatamente si sente coinvolto in questa sfida, chiede informazione alle tre graie, che poi tradotto è grigie, cioè tre figure della mitologia che rappresentavano la vecchiaia, mai giovani, già portate nella loro formazione ad essere molto decrepite. Pensate, si passavano un dente e un occhio in tre per mangiare o per restare sveglia una a turno e proteggere le altre. Ecco, lui arriva, ruba sia l'occhio che il dente, e se volete indietro l'unico bene che avete, dovete dirmi dove si nasconde Medusa. Loro ovviamente riferiscono l'anfratto dove troviamo trovare questo mostro. Ma non solo, Minerva lo fornisce di uno scudo e dice: mi raccomando, puliscilo perfettamente in modo che faccia da specchio, e quando lei ti guarda, tac, proteggiti e rimanda indietro il raggio del suo sguardo. L'ho detto in maniera un po' da UFO robot, però insomma che sia riflesso questo sguardo verso se stessa. E non solo, per scappare riceverà anche l'elmo dell'invisibilità da Ade, il dio degli inferi, e allo stesso tempo avrà da Mercurio e Hermes dei sandali alati per scappar via più velocemente. Ma non solo, una volta decapitata la Medusa, dopo essere stata autopietrificata, ricordate? Lei era stata con Poseidone, e quindi da questo taglio e da questo sangue generano le gorgonie e i coralli. Quindi abbiamo nel mito anche la nascita di questa vegetazione, che poi vegetazione non è, mondo animale, come ben sapete, dei coralli e delle gorgonie. Ma non solo, un cavallo alato bianchissimo che servirà a Pegaso per sfuggire alle sorelle infuriate di Medusa, prenderà appunto, come ho già detto, il nome di Pegaso. Questa è un po' la storia di questa, perché no, sventurata ragazza, insomma, da bellissima, viene sedotta da una divinità e viene punita e martoriata in maniera così ingiusta, se vogliamo, insomma. E poi oltretutto, come ho detto, a me le meduse sono simpatiche ed esteticamente le trovo bellissime. E poi non si fa altro che parlare di questo granchio blu, almeno che una volta parliamo di Medusa anche, no? Che ha una tragica quanto importante storia nel mito, con tante rappresentazioni e iconografie quanto mai, come dico sempre, nel mito tutti i tempi. Stacco musicale, ascoltiamo Leon Thomas in un live che lo vede protagonista in quel di Berlino. Ma per quanto riguarda Leon Thomas e questa sua bellissima voce particolare, sembra uno yodel più che un cantante di vocal jazz, insieme non a Pharoah Sanders, ma insieme a Oliver Nelson al sax contralto, che porta un grandissimo standard di Thelonious Monk, Straight No Chaser. A tra poco parleremo ufficialmente del Festival della Letteratura di Mantova. Straight no time, no time for chasing around. I'm trying to keep up, I've got to keep up. You wanna know why? Because they're waiting in line. I'm in a hurry, no time to worry. You see, to me it really matters what comes, it really doesn't, so I'm chasing it straight. Thank you. adesso la mia sfacciataggine è arrivata a tal punto fino a scomodare a Mantova Alessandro della Casa del Festival della Letteratura, sempre seguito negli 11 anni del Breakfast Club. In questo caso ho osato tanto di arrivare alla diretta, ma non nel voltiamo pagina, ma negli inserti culturali in rassegna stampa del lunedì. Per quanto riguarda i magazine di oggi, è protagonista al Festival della Letteratura, prestigiosissimo, nella splendida città di Mantova, con Alessandro. Eccolo qui, buongiorno Alessandro, ben ritrovato. Buongiorno a voi, grazie ancora dell'invito. Ma ti dico io, che sorpresa, questa volta il nostro co-conduttore è stato portato in diretta, non con la solita telefonica registrata, e per noi è un grande onore. Intanto, nuova edizione di questo festival che ormai si conferma tra i più prestigiosi e importanti, non solo a livello nazionale. Di questa rassegna che ci puoi raccontare per l'edizione 2023, Alessandro? Beh, ci sono ovviamente tantissime cose, come al solito. Noi avremo più di 300 appuntamenti, tra appunto eventi a pagamento, eventi gratuiti dell'ultimo minuto, e come al solito abbiamo cercato di conciliare la grande presenza di autori stranieri, italiani, quindi grandi voci da ascoltare, gli autori più amati dal pubblico, nuove scoperte e talenti letterari da portare all'attenzione del nostro pubblico, insieme ovviamente a percorsi di riflessione, omaggi e anche molte sperimentazioni che abbiamo tentato proprio per cercare sempre di avvicinarci alla letteratura, avvicinare il nostro pubblico secondo modalità che magari sono meno consuete, ma che permettono un maggiore approfondimento, una maggiore relazione e interazione con gli autori. Insomma, abbiamo cercato il solito mix che ha fatto secondo noi la fortuna del festival e ne è il suo tratto più caratteristico. Un nome che è ricorrente, l'ho visto nei magazine, io seleziono alcuni inserti, Alias dal Manifesto, sia per sabato che la domenica, La Lettura dal Corriere della Sera, La Domenica del Sole 24 Ore, tutti i libri dalla Stampa. Insomma, cerco di dare un pochettino un avvio alla settimana per il Breakfast Club, ma anche per divulgare questi appuntamenti. Giustamente il vostro appuntamento è protagonista su questi magazine, e in prima pagina su Alias dell'edizione domenicale c'è un nome che ho trovato anche su altri magazine, che è Olga Tokarczuk. Ce ne puoi parlare un po' di questa di questo caso letterario? Guarda, Olga Tokarczuk, ne siamo onoratissimi, dovevamo averla già lo scorso anno, poi in realtà il romanzo, il nuovo romanzo che è appena uscito, e appunto ha avuto una gestazione più lunga di quella prevista. Ovviamente la prosa di Tokarczuk è una prosa molto complessa, molto densa, ed è senz'altro una delle autrici internazionali più rilevanti. Ovviamente il Nobel della letteratura che ha ricevuto ha sancito questa sua rilevanza a livello internazionale. Tokarczuk, noi siamo molto contenti di averla con noi, sarà l'autrice che chiuderà questa edizione del festival domenica pomeriggio alle 6:30 in Piazza Castello, attesissima, e siamo tanto più contenti perché noi eravamo riusciti ad averla qualche anno fa, proprio in linea con quel tentativo sempre di scouting, di scoperta di cui ti parlavo prima, quando ancora il pubblico italiano era un'autrice quasi semisconosciuta, e quindi averla oggi dopo questa consacrazione è per noi motivo di grande orgoglio, ma soprattutto sappiamo di andare incontro all'attesa di tantissime lettrici e lettori che ovviamente non vedono l'ora di incontrarla. Certo, gli incontri sono diversi, ma abbiamo un paese specifico oppure c'è uno sguardo internazionale, oltre che all'Italia, di cui a breve parleremo? Guarda, senz'altro lo sguardo è a 360 gradi, però secondo me ci sono due forse aree che vanno messe in evidenza. Una, vabbè, è un paese molto vicino, ed è sono i Paesi Bassi, perché quest'anno, grazie anche alla collaborazione con l'ambasciata dei Paesi Bassi, abbiamo creato questo piccolo percorso che è dedicato alla lettura dell'infanzia e dell'adolescenza olandese, e si chiama il percorso quattro passi nei Paesi Bassi, e avremo appunto Van de Wendel, Annette Schaap, Emme Coens, autrici e autori molto amati dai piccoli lettori, che arriveranno a Mantova per tenere incontri, laboratori, e poi avremo anche questo grande spettacolo che terremo proprio la domenica del festival, che si chiama Biopera, che è animato e ideato da questo attore performer straordinario che si chiama Tom Meyer, che appunto insieme a un soprano, a un tenore, a un pianoforte, cercherà appunto di instillare nei bambini, nelle loro famiglie, l'amore per il melodramma. Quindi è molto curioso che proprio un autore appunto olandese voglia avvicinare il pubblico a questa, diciamo così, forma musicale, che è propria anche del nostro, certo, del nostro paese, della nostra tradizione, ed è veramente uno spettacolo trascinante, perché poi portare i bambini a cantare con lui, a metterli all'interno delle queste grandi passioni che animano proprio il teatro d'opera. E poi invece, da un punto di vista per quanto riguarda la grande letteratura internazionale, senz'altro mi viene da dire che una delle aree su cui noi puntiamo l'attenzione quest'anno è il continente indiano. Noi avremo con noi Deepti Kapoor, che è questa autrice che è di noir indiana, che ha avuto un grandissimo successo, sarà intervistata da Carlo Lucarelli, ed è usa una letteratura di genere proprio invece per darci un disegno molto preciso di quella che è la società indiana contemporanea, di questo paese in grandissima espansione, no? Quindi anche con le trasformazioni di un'India al di fuori dei cliché più consolidati e più triti. E poi avremo anche un'altra grande presenza, che è Pankaj Mishra, che di fatto è uno degli opinionisti e dei lettori, degli interpreti di quelli che sono di quella che è lo sviluppo dell'attualità, del mondo contemporaneo. Lui praticamente è un autore che collabora con tutte le più grandi testate, dal Guardian su internazionali in Italia, quindi è molto molto conteso anche dalla redazione dei principali giornali, e di fatto arriva da noi con un romanzo che ripercorre anche la storia del suo paese attraverso una saga familiare, e dunque è l'occasione per avere anche qui una delle voci più autorevoli di quello che è il giornalismo anche internazionale. Da ultimo, sempre da quest'area, non posso non ricordare Shehan Karanutilaka, che è il vincitore del Man Booker Prize, quindi anche qui grandissimi nomi, insomma, per centrare l'attenzione forse su un'area del mondo che noi non conosciamo così attentamente, che pure ormai è fortemente anche connessa con quella che è la realtà internazionale, con quella che ovviamente sono anche le nostre questioni che stiamo affrontando. Sì, e noi ci uniamo a questa analisi, perché nel Voltiamo Pagina, la rubrica letteraria del Breakfast Club mattutino, ma al mercoledì, insieme a Silvia Albertazzi, abbiamo notato che tra Africa, sud-est asiatico, India, vi è una importante crescita per quanto riguarda non solo la diffusione, ma mi permetto di dire anche l'attenzione, e questa è una cosa che certamente dal punto di vista extraeuropeo, per quanto riguarda la letteratura, non dico crescita, perché il motivo di qualità indubbiamente è sempre, comunque e ovunque, ma è importante l'attenzione e l'analisi e la diffusione di queste autrici e di questi autori. Quindi onore al merito al Festival della Letteratura di Mantova, che parte ufficialmente, io con le date sono un disastro, ma mi permetto di azzardare, il 6 settembre 2023. Dico bene? Hai detto benissimo, anche se noi abbiamo già aperto, perché come forse avrai letto, noi quest'anno abbiamo proprio nella volontà di celebrare il centenario di Italo Calvino, abbiamo aperto questo nostro percorso che si chiama Calvino in Gioco, e già da sabato scorso abbiamo avviato questa escape room ispirata a Se una notte d'inverno un viaggiatore, creata da questo gruppo, da questo studio di game design designer che si chiama We Are Muesli, l'escape room si chiama Ludmilla, è come la protagonista del romanzo, e ci sembrava che fosse la formula migliore per noi dedicarci a questo romanzo che parla, che vede un lettore, una lettrice protagonisti, dunque assolutamente quello che accade qui a Festival Letteratura, dove lettori e lettrici sono i protagonisti assoluti della manifestazione. Bene, Spazio Italia, io ti posso dire che se tutto va come deve, io avrò in diretta, dopo lo stacco pubblicitario delle 8:30, Giulio Busi, che sarà anche lui al Festival della Letteratura, con un lavoro di cui vi darò anticipazione a breve nei magazine. Insomma, qualche nome per l'Italia anche, poi ti lascio libero. Ma allora, guarda, tra qualche nome d'Italia, ovviamente anche qualche tantissimi, ne avremo quest'anno per esempio Paolo Giordano e Walter Siti, che si interrogheranno sul il cosiddetto romanzo di autofiction, no? Di cui si parla moltissimo, e quindi come appunto parlare di sé, di quello che ci accade, possa essere uno strumento narrativo molto potente per leggere quello che accade invece più in generale alla società, al mondo che ci circonda. Un altro incontro molto importante per noi, quello tra Vera Gheno e Melania Mazzucco. Qui lo sguardo è più ampio, non è solo di narrativa ma anche sull'arte, e ci si interroga proprio su quello che è il discorso del canone, del cosiddetto canone femminile, di come, cioè anzi dell'assenza di un canone femminile nel momento in cui proprio molto spesso nella narrazione, della narrativa, nello studio critico, anche della nostra letteratura, della nostra arte, si sia sempre privilegiata una lettura, una linea maschile. Ma poi tra scrittori e scrittrici ci sono tantissime presenze, da Olga Campofreddo, Mavida Ponte, appunto Marco Drago, per Sandro Pallavicini, insomma autori, tantissimi autrici e autori, come sempre con cercando anche di guardare anche i nuovi autori e le nuove autrici che si sono affacciati da poco nel panorama italiano contemporaneo, appunto a grandi nomi come quelli che ti facevo prima. Tutto il programma ovviamente sin troppo facile da cercare anche per un incapace informatico come me, tra piattaforme social e siti vari, per cui diamo un'attenzione come ogni anno al Festival della Letteratura di Mantova. Non apro la polemica, perché su Robinson di Repubblica ogni volta critico che ci sono i lettori TikTok, che diciamo come per me, insomma, li vedo sempre un pochettino così, con un occhio molto critico, per cui non ti chiedo nulla su questo, anzi ti do appuntamento alla prossima stagione, e perché no, magari ci incrociamo a Mantova in uno di questi prestigiosi incontri. E grazie per la disponibilità. Grazie a voi, grazie a te. Ormai dovrò darti un cachet di presenza. Grazie, buon festival. Grazie a voi, ciao, buona giornata. Ciao, ciao. So I'm going nowhere. Going nowhere I belong. I'm going Parov Stellar, il brano è Nowhere, ma noi sappiamo dove siamo, in frequenza sui 103.1 di Radio Città Fujiko. Pubblicità, poi si torna assieme, abbiamo altri approfondimenti sempre legati alla nuova edizione del Festival della Letteratura di Mantova, e quindi vi invito a restare in compagnia del Breakfast Club, e perché no, avremo anche il quiz, vediamo un attimo come riusciamo a strutturare anche la parte di co-conduzione con voi. 333-180-9494, stacco pubblicitario, poi si torna in diretta tra pochissimo. Un buon ascolto, non cambiate frequenza, a tra poco, sempre su Radio Città Fujiko. Lasciamo la musica del trombettista Nathan Davis dal disco intitolato semplicemente Se, If, ma abbiamo una certezza che la nostra presentazione della nuova edizione del Festival della Letteratura di Mantova, dopo linee generali, noi per quanto riguarda la selezione su una presentazione editoriale, abbiamo con noi, ed è un grande onore ogni volta che lo ospitiamo all'interno dei magazine, il dottor Giulio Busi. Buongiorno e benvenuto. Buongiorno, salve a voi. Anzi, bentornato si può dire, ma è sempre un grande piacere, perché la prima pagina del prestigioso Domenica del Sole 24 Ore è dedicato a un lavoro che sarà presentato venerdì 8 settembre alla Basilica Palatina di Santa Barbara alle 16:30, così siamo precisi, in quel di Mantova, con un titolo molto intenso: Gesù il Re Ribelle. Dall'acqua del Giordano emerge l'umanità di Gesù. Oltre la religione, Giulio Busi analizza la figura del figlio di Dio nel contesto storico e individua nel bagno al fiume, con l'apparizione della colomba dello spirito, un momento fondativo per spiegarne tutta la vita. Insomma, la partenza, l'incipit di questo articolo mi ha affascinato in ulterior modo già dall'umanità di questa figura, no? Che dice: ma gli altri cosa dicono di me? E questa è una parte che mi ha incuriosito tantissimo, perché ne possiamo vedere un'ulteriore umanità, non dico debolezza, ci mancherebbe, giammai, ma un'ulteriore umanità, no? E vorrei sapere cosa dicono gli altri di me. E perché fa questa domanda il Cristo, e cosa dicono gli altri di lui all'epoca? Beh, dicono tutto il possibile, che lo considerano un profeta nel migliore dei casi, qualcuno lo considera un ingannatore, lo sappiamo, lo considera, si comincia a muovere l'idea che possa essere il Messia. In un certo senso Gesù non è mai contento, nel senso che non è contento chiaramente delle critiche, ma anche quando Pietro riconosce la sua messianicità gli dice di tacere perché non è arrivato il tempo. Per cui è molto evidentemente una domanda a cui è molto difficile rispondere, e la risposta dipende dal momento giusto, nel senso che Gesù si muove nel tempo, sappiamo che ha una missione secondo i Vangeli da compiere, ma c'è una maturità di questo tempo che gli altri non riescono a cogliere, quindi è sempre in tensione lui, ed è in tensione la domanda con chi gli sta attorno. Importante studioso autodidatta. Studioso della Torah, che è questo fondamentale, direi, e di più, ma lo fa da autodidatta. Questo mi incoraggia molto, ma allo stesso tempo, insomma, voglio dire, un bel percorso. C'è l'ufficialità di questa notizia? Sì, perché in realtà è evidente che mentre i suoi antagonisti hanno, in molti questi, quelli che i Vangeli chiamano gli scribi e i farisei, hanno un curriculum di studi documentato, lui non ce l'ha e ha una sapienza profonda. In realtà propone delle interpretazioni della Torah estremamente affascinanti e nuove, ma si rivolge a persone che nella maggior parte non hanno studiato, non sanno scrivere e leggere, e quindi usa tutti gli strumenti della divulgazione orale, e lui stesso non può accampare, chiaro dal contesto evangelico, un curriculum di studi documentato. Questo nessuno, in nessun posto salta fuori, anzi a Nazareth hanno molti dubbi sulla sua autorevolezza, perché lo sanno che viene da una famiglia erata semplice, e dicono: ma non è questo il tecton in greco, il carpentiere o il figlio del carpentiere? Non viene considerato un sapiente con gradi accademici, diciamo, come potremmo chiamarli oggi. Certo, da un piccolo borgo rurale in Galilea lascia la sua quotidianità e poi entriamo in una narrazione dove diventa protagonista l'elemento acqua. Ecco, l'elemento acqua, che è ovviamente anche dal punto di vista esoterico, possiamo trovarne anche ancestralmente tante realtà, ma perché sceglie proprio una sorta così fluida, ma nello stesso tempo così importante, dottor Busi? Beh, questo è, dipende anche dal rapporto con Giovanni Battista, il fatto che all'inizio la sua missione si leghi a quella del Battista che, come sappiamo, battezzava nel Giordano. Questo fiume che scorre attraverso il deserto, che lo vivifica e che rappresenta quelle acque vive che porta... un segno della vita nella aridità del deserto. Io mi sono concentrato sull'episodio dell'immersione nel Giordano perché in realtà il Gesù che tratteggio ha molti dei tratti di un mistico ebreo, quindi ha, come ce ne sono altri, si avvicina ad esempio a esperienze di cambiamento di coscienza e di stato, come quella di Ezechiele all'inizio del libro di Ezechiele, per il quale si aprono, dice Ezechiele, i cieli, la stessa cosa che succede per Gesù, mentre accanto al canale Chebar in Mesopotamia. Quindi mi sono concentrato su questo elemento del battesimo come porta d'ingresso di esperienza, perché quelle di Gesù sono esperienze a livello umano, che segnano l'apparizione della colomba, l'apertura del cielo, l'apparizione della colomba, fa parte di un linguaggio mistico e questo linguaggio coinvolge l'acqua, questa fluidità e questa carica di misterioso e di divino che l'acqua porta con sé. Certo, la figura, poi l'immagine, l'iconografia della colomba è qualcosa che rappresenta oltre. E la figura del Battista, che mi ha sempre incuriosito tantissimo, è questo predicatore che addirittura ha avuto un'importanza superiore allo stesso Cristo. La figura del Battista come viene tratteggiata? Ma cerco di capire punti di contatto ma anche differenze. Esatto. Nel senso che perché è evidente che all'inizio Gesù anzi battezza anche lui, e questo si capisce da punti dei Vangeli, da Giovanni, c'è la differenza fondamentale. La differenza è la rinuncia e l'idea che la rinuncia il pentimento e l'idea in qualche modo dell'ascetismo che è in Giovanni, da cui Gesù si allontana, e l'idea che il peccato sia qualcosa che si possa lavare, diciamo così, esteriormente. Invece Gesù è molto chiaro: il peccato è qualcosa che ci portiamo dentro, la colpa è interiore, la trasgressione è interiore e non c'è la purezza, i criteri di purezza esteriori non servono alla fine. Gesù il re ribelle sarà presentato, oltre che questa anticipazione di cui ringraziamo Giulio Busi, autore del lavoro, venerdì 8 settembre alla Basilica Palatina all'interno del Festival della Letteratura di Mantova, per la precisione aggiungo anche alle 16:30. Io la ringrazio tantissimo per queste parole con Radio Città Fujiko nella rubrica dei magazine e le auguro una buonissima giornata. Magari ci incontriamo a Mantova. Grazie. Volentieri, grazie a voi e agli ascoltatori. Buona giornata. Ben sapete, all'interno dei magazine l'aspetto dedicato al sacro è presente, quando ve ne è la possibilità c'è sempre motivo di approfondimento. Giulio Busi l'abbiamo già conosciuto per altri lavori, in questo caso il lavoro edito da Mondadori, ed è per voi. E adesso arriva il quiz al 333-180-9494. Prima, oppala, ho lanciato un brano che ci porta un sole che nasce, The Rising Sun. Loro sono The Soul Jazz Orchestra. Allora, purtroppo il Battista non fa una bella fine. E questa figura dirà al re: io ballerò per te se mi porti la testa del Battista. Chi è questa figura? Chi è questa tra virgolette ballerina? Se mi scrivete il suo nome al 333-180-9494, chi ha voluto, ricambiando con una danza sensuale, la testa del Battista? Per voi Gesù il Re Ribelle di Giulio Busi, edizione Mondadori. Aspetto le vostre risposte. Facile, dai! Antipa era Antipa, ma anche di nome lo conosciamo, non certo. Erode Antipa è il re che appunto sente il Battista che lo critica pubblicamente per alcune sue nefandezze, e allora questa figura decide: se mi porti la testa del Battista, io per te farò una danza, guarda che sarà qualcosa di meraviglioso. Chi è questa ballerina fantomatica? Insomma, dai, è facile, su, vi ho dato anche qualche indizio. Chi è stata la ballerina che ha voluto la testa del Battista? Perché oltretutto è stata protagonista anche in diverse rappresentazioni artistiche, e di arte parleremo velocemente perché mancano pochi minuti anche per voi per rispondere, per avere Gesù il Re Ribelle, edizioni Mondadori, l'autore l'abbiamo avuto ai nostri microfoni, e Giulio Busi sarà all'interno della rassegna del Festival della Letteratura. Aspetto le vostre risposte, su, dai, 333-180-9494. Vi lascio con l'anticipazione dedicata all'arte. Il respiro di Boccioni prepara il futurismo, e alla Magnani Rocca a Parma le prove di una ricerca che ambisce a incanalare l'energia del primo Novecento. Bene, sapremo di più con Stefano Roffi. Venerdì ci sarà la conferenza stampa a Mamiano di Traversetolo in provincia di Parma, stagione 2023-2024, protagonista Boccioni, prima del futurismo. Siamo arrivati al termine, domani Moved Groove, una grande nazionale italiana. Io ovviamente non sto seguendo nulla, per cui me ne parlerete voi per quanto riguardano i mondiali di pallacanestro attualmente in corso. Io vi auguro una buonissima giornata, aspetto ancora le vostre risposte. Domani saremo per la colazione del martedì per voi. Arriva Alessandra, grazie Alessandra, esatto, e Salomè. Brava Alessandra, sarei contattata a breve per la consegna del saggio, autore Giulio Busi. Sei arrivata a proposito di Move to Groove, a Fil di Sirena, è una tiro da tre punti a segno, l'ultimo secondo. Grande Alessandra, grazie. Poi oggi sono in rassegna dalle 9:30 e quindi vi lascio con Liberi Dentro e vi auguro un buon ascolto sulle frequenze dei 103.1. Per oggi è veramente tutto dal vostro William Piana. Ciao a tutte, ciao a tutti.